Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, nuova poesia del poeta Nico Menchini, dal titolo Piccoli miei. Delicatamente vorrei accarezzarvi come si sfiora una bolla di sapone e a labbra socchiuse in alto spingervi leggeri verso i sogni sperati. Teneramente vorrei cullarvi come il mare col pescatore sul finire del giorno, dopo una dura lotta, e volentieri rapire ogni lacrima dagli occhi vostri prima che sgorghi, ma risalendo l'irta scala che dal cuore mena alla mente, amaramente comprendo che nei sogni infranti, nelle notti insonni, nei pianti versati che l'uomo cresce, la donna si fa forte. Così almeno mi contento d'essere per voi il legno del bastone su cui far forza, anche contro vento, per risalire dalla polvere più densa.